Smart City. Voci e luoghi dell'innovazione. Di Maurizio Melis. Buonasera e benvenuti a Smart City. Molte delle tecnologie che oggi troviamo a bordo di tutte o quasi le autovetture hanno esordito, come è noto, insomma, in Formula 1 o comunque nel circuito delle corse automobilistiche. Per esempio l'ABS, che permette di evitare il blocco delle ruote durante una frenata, ha esordito lì, così come l'ESP, che riduce il rischio di perdere il controllo di una vettura. Il turbo ha esordito nel mondo delle corse, anche molti materiali, l'ultimo forse la fibra di carbonio, sono stati messi alla prova nelle corse automobilistiche, dove appunto vengono provati, testati in condizioni estreme. Ormai da diversi anni esistono dei campionati, delle competizioni parallele dedicate anche ai veicoli elettrici, dove appunto si portano alle estreme conseguenze le tecnologie che domani troveremo a bordo delle auto elettriche commerciali. Ed è a questo mondo che guarda iZEV, la supercar elettrica di cui parliamo questa sera, realizzata da un consorzio di piccole e medie imprese con capofila la società Picchio SPA, in collaborazione con l'Enea, che i nostri ascoltatori conoscono, la nostra, diciamo, Agenzia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile. Bene, parliamo di iZEV con Fernando Ortenzi, che è ricercatore del Laboratorio Sistemi e Tecnologie per la Mobilità e l'Accumulo del Centro di Ricerca Enea della Casaccia. Buonasera Ortenzi. Buonasera a tutti voi. Allora, senta, ci descriva per cominciare, ci faccia vedere, insomma, un po' questo veicolo, questo iZEV. Allora, iZEV è un prototipo nato per le corse, in particolare per le gare in salita, o meglio, è stato allestito su un telaio per questo tipo di gare. È una macchina completamente elettrica, con quattro ruote motrici, in cui all'avantreno abbiamo un motore da 150 kW di potenza massima, al posteriore abbiamo due motori da 100 kW di potenza massima e chiaramente due motori differenziale elettronico, quindi anche quella è un'altra innovazione. Abbiamo come sistema di accumulo circa 24 kWh di batterie. Tutto questo ci consente di avere una velocità massima che può aggirarsi tra i 250 e i 320, 330, a differenza dal rettilineo in cui la macchina si trova. E può avere un'accelerazione da 0 a 100 che può oscillare attorno ai 3 o i 3,5 secondi e un'autonomia in un ciclo di riferimento come quello che fanno i veicoli commerciali che può avere anche 180 km. 180 km, parliamo, ecco, di una monoposto o di una biposto, giusto? È una macchina, è un biposto, una classica macchina sportiva biposto. Biposto, perfetto, perfetto, come quelle che si vedono per strada, per il resto, con le forme affusolate, sì, e quant'altro. Senta, voi avete lavorato in particolare, poi lei che fa parte del Laboratorio Sistemi e Tecnologie per la Mobilità e l'Accumulo, quindi accumulo elettrico, avete lavorato proprio sul pacco batterie, che, se vogliamo, in una motorizzazione elettrica è forse la parte più sofisticata, tecnologicamente avanzata oggi come oggi. Ecco, quali sono gli aspetti innovativi che avete introdotto? Esattamente, le batterie sono proprio la parte più sofisticata e più critica di un veicolo elettrico, sicuramente per un veicolo sportivo. Noi abbiamo realizzato questo pacco batterie con delle celle, quindi il cuore del sistema di accumulo ad alta potenza specifica, quindi sono in grado di scaricare elevatissime correnti e di recuperare anche altissime correnti. Certo, questo pronto perché sia le accelerazioni che le frenate sono estremamente potenti, no? E quindi ci sono dei passaggi di corrente elettrica straordinari. Ecco, esattamente, in questi mezzi. Quindi si riescono a scaricare potenze che sono molto alte rispetto alla capacità della batteria. Insomma, e quindi il problema è che le batterie devono sopravvivere a questi maltrattamenti. E voi avete lavorato su un veicolo completamente elettrico, ma anche su un veicolo ibrido, per la precisione, vero? In questo progetto abbiamo lavorato sui sistemi di accumulo di un veicolo, del veicolo gemello, che è un veicolo ibrido. Quindi un po' motorizzato normalmente, diciamo, un po' elettrico. Un motore a combustione interna di circa 400 cavalli un sistema di accumulo di 150 kW di un sistema elettrico. Il sistema di accumulo del veicolo ibrido è ancora più estremizzato rispetto a quello elettrico, tanto che si riescono ad avere potenze tali da scaricare le batterie in 2 minuti circa, ecco, e di ricaricarle in 12. Okay. Diciamo che sono valori che al momento in commercio non esistono e sono soltanto per applicazioni così estreme tipo applicazioni sportive. Senta, ma allora ci dovete andare in gara, no? Questo è il vostro obiettivo. Quando vi vedremo? Sulle piste? Diciamo che sì, l'obiettivo è di portare questa macchina nelle piste e stiamo lavorando per partecipare ad un evento il prossimo anno, ma anche e soprattutto di partecipare al a un campionato italiano di velocità in montagna, che è proprio la categoria dove il telaio e quindi tutto il veicolo è stato poi progettato. E chiaramente serviranno degli sforzi molto grandi per poter partecipare a queste gare, e se qualcuno vuole darci una mano, siamo molto insomma, speriamo contenti. Che se siamo sulla radio di Confindustria, voi siete un centro di ricerca pubblica, insomma, se qualcuno vuole mettere mano al portafoglio, lei dice, ci fa assolutamente piacere. Va bene, grazie Fernando Ortensi. Grazie a lei.